La balia, seconda parte, dalla sesta raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Silvia De Simone. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. La balia, seconda parte. Capitolo 3. Avrebbe voluto attaccarsi subito al seno il piccino. Il padrone era d'accordo con lei. Ma Ersilia, che doveva in tutto contrariare il marito, no signore, volle prima che un medico esaminasse il latte. «C'è bisogno del medico?» disse Annicchia, ridendo. «Non vede come sto?» Era raggiante di salute, fresca e rosea. Ersilia dal letto la guardò odiosamente, come se ella con quelle parole avesse voluto attirare l'attenzione del marito. «Il medico, voglio subito il medico!» insistette. E il Mori, borbottando la sua solita frase, dovette andare per il medico. Questi venne verso sera, quando già Annicchia spasimava di nuovo per il seno inturgidito, e il bambino, che non riusciva ad attaccarsi a quello del resto arido della madre, trangosciava affamato. Ennio avrebbe voluto assistere alla visita, ma la moglie lo cacciò via. «Che hai da vedere? Di piuttosto a Margherita che porti un cucchiaio e un bicchiere d'acqua!» «Bionda, eh? Bionda, bionda!» diceva intanto il medico, che aveva in vezzo ripetere 3 o 4 volte di seguito la stessa parola, guardando con aria astratta, come se stentasse ogni volta a fissare il pensiero. Annicchia, nel vedersi osservata a quel modo, diventò rossa come un papavero. «Bionda, eh? Diciamo, gentilissima signora!» seguitava intanto il medico. «Bionda, è vero? Gentilissima signora! Bella giovane, bella, e pare sana, anche sana! Ma bruna, bruna, bruna sarebbe stata meglio! Il latte delle brune, sicuro! Il latte delle brune! Basta, vediamo un po'!» Fece alzare il capo d'Annicchia e le esaminò le glandule del collo. Dopo altre osservazioni, distratto, cominciò a sbottonarle il corpetto. Annicchia, tremante di vergogna, stupita e imbarazzata, cercò di impedirglielo, riparandosi il seno con le mani. «Cava, cava fuori!» le disse il medico. Ersilia scoppiò a ridere. Perché ride, gentilissima signora?» «Ma non vede come si vergogna codesta sciocca?» gli fece notare Ersilia. «Di me? Io sono il medico!» «Non c'è avvezza!» riprese Ersilia. «E poi le nostre donne, sa, noi siciliane, non siamo mica come le donne di qua!» «Ah!» fece subito il medico. «Capisco, capisco, so bene, più pudibonde, eh? Pudibonde! Ma io sono il medico! Un medico è come il confessore! Vediamo un po'. Spremi tu stessa qualche goccia in questo cucchiaio. Quanto tempo ha il tuo figliuolo?» «L'ho comprato», rispose Annicchia, forzandosi a guardarlo in volto, «che saranno 2 mesi». «L'hai comprato? Che dici?» «Come debbo dire? Ma fatto, figliuola mia, fatto! I figliuoli si fanno, che c'è di male?» Quando il medico finalmente, dopo l'esame del latte, andò via, Annicchia si abbandonò su una seggiola, sfinita, come se avesse sostenuto una tremenda fatica. «Ah, signorina mia, che vergogna! Mi sentivo morire!» Poco dopo, udendo vagire il bambino, corse alla culla e subito gli porse il petto. «Tiè, saziati, figlio bello mio, animuccia mia!» Ersilia, dal letto, la guatò di nuovo. Le vide i biondi capelli dorati, spartiti nel mezzo in 2 bande che si ripiegavano sugli orecchi e le incorniciavano il volto delicato. Le intravide il seno meravigliosamente bianco e formoso, e le disse stizzita: «Sarebbe stato meglio custodirlo prima e poi dargli il latte per addormentarlo.» «Lo lasci succhiare, poverino!» esclamò Annicchia. «Ha proprio fame! Se sentisse come succhia, come succhia!» Poco dopo, nella camera accanto, destinata a lei, al piccino, non rifiniva d'esclamare, ammirando la mobilia e i cortinaggi: «Gesù, che cosa a Roma! Che cose!» E si sentì impacciata davanti a quel letto nuovo, così bello apparecchiato per lei. Ricordò allora l'impaccio più vivo provato 2 anni addietro alla vista di un altro letto nel quale per la prima volta avrebbe dovuto coricarsi non più sola. Rivide col pensiero la sua casetta lontana, come era già, allorché Titta, senza quelle ideacce cattive che lo avevano rovinato, aveva messa su, amorosamente per le nozze. Come era adesso, squallida e nuda, con 2 seggiole appena e un letto solo, per lei e per la suocera. Ora la vecchia laggiù lo aveva tutto per sé, quel letto a 2, poiché forse il bambino dormiva in casa della vicina. Povero Luzziddu, così piccino, là fuori di casa, e con la mamma sua così lontana. Certo, quella donna non poteva aver per lui le cure che aveva per il proprio figliuolo. E Luzziddu, messo da parte, doveva aspettar quieto quel po' che avanzava. Lui che finora aveva avuta tutta per sé la mamma sua. Annicchia si mise a piangere. Ma poi, temendo che qualcuno se n'avvedesse, asciugò le lagrime e, per confortarsi, pensò che lì presso, a guardia, c'era la nonna, la quale all'occorrenza avrebbe saputo farsi valere con quel suo fare cupo imperioso. Degna madre di Titta, ma buona in fondo, come era buono Titta. Certo, col tempo si sarebbe convinta che se la nuora aveva osato disobbedire, vi era stata costretta dalla necessità e per il bene di tutti. Ora, per dimostrare quasi a se stessa che era stato un sacrificio il suo e che nel compierlo aveva pensato soltanto al bene degli altri e non al suo, avrebbe voluto dormire magari per terra e non lì, su quel letto signorile, sotto quel cortinaggio. Il piccino lì, poiché tutta quella ricchezza era profusa per lui, e lei per terra come una cagna. Non le dava proprio l'animo di entrare sotto quelle coperte, pensando allo strame su cui giaceva il suo Luzziddu e a quello della suocera. Ma di lì a pochi giorni il goffo e pomposo abbigliamento recato dalla sarta doveva maggiormente offenderla in quel suo segreto sentimento. Erano proprio per lei tutte quelle galanterie, grembiuli ricamati, nastri di raso, spilloni d'argento, e doveva uscire così, come se dovesse andare a una mascherata? Ersilia, che già s'era levata da letto, si stizzì acerbamente. Quante smorfie! Me l'aspettavo! Qua usa così, e così devi vestire, ti piaccia o non ti piaccia? Come comanda Vossignoria, s'affrettò a risponderle Annicchia per calmarla. Mi perdoni, Vossignoria ha speso tanti bei denari per me che non merito nulla. E poi che c'entra? Vossignoria è la padrona. Dicevo che mi sembra curioso, perché nel nostro paese... Qua siamo a Roma, troncò Ersilia. Del resto stai benissimo. Era vero. Il rosso acceso dello zendado dava un vivo risalto al biondo dei capelli, all'azzurro degli occhi limpidi e gai. Ersilia era certa che uscendo a passeggio con lei avrebbe fatto una pessima figura, ma la vanità, l'ambizione di aver la balia parata riccamente erano più forti in lei della stessa gelosia. La condusse con sé la prima volta in carrozza. Annicchia, infocata in volto dalla vergogna, teneva gli occhi bassi sul piccino che le giaceva in grembo. Ersilia intanto notava che tutti per via si fermavano e si voltavano a mirarla. «Su, su!» le disse. «Tieni alta la testa! Non diamo spettacolo! Pare che t'abbiano schiaffeggiata!» Annicchia si provò ad alzare gli occhi e a tenere alta la testa. A poco la maraviglia dello spettacolo insolito e grandioso della città le fece scordar la vergogna e si mise a guardare come allocchita dove Ersilia l'indicava. «Gesù, Gesù!» mormorava tra sé Annicchia. «Che cose grandi! Che cose!» Rientrò in casa da quella prima passeggiata stordita, quasi vacillante, con gli orecchi che le ronzavano, come se fosse stata in mezzo a un tumulto e avesse faticato tanto a uscirne. E si sentì di gran lunga più lontana dal suo paese, come non si sarebbe mai immaginato, e quasi sperduta in un altro mondo che non le pareva ancor vero. «Gesù, Gesù!» Intanto di là il Mori dava a leggere alla moglie una lettera arrivata dalla Sicilia durante l'assenza di lei. La signora Manfroni scriveva alla figlia che la vecchia Marullo le aveva rimandato il denaro che ella, secondo l'accordo con Annicchia, le aveva anticipato sulla prima mesata del baliatico. La vecchia non aveva voluto neanche vederlo da lontano, Piuttosto, diceva, sarebbe morta di fame o sarebbe andata a mendicare di porta in porta un tozzo di pane. Intanto era venuta la vicina, a cui Annicchia aveva affidato il bambino, a protestare contro quella vecchia strega, che non le voleva dar nulla, neanche per provvedere ai bisogni della creaturina. La signora Manfroni aggiungeva che aveva dato a quella vicina metà della mesata, a patto però che la desse ogni giorno alla vecchia, come carità che partisse da lei, un piatto di minestra per non farla proprio morir di fame. Consigliava alla figlia di non stare a mandar l'altra metà, che la Marullo non avrebbe mai accettato, e concludeva dichiarandosi dolentissima di essersi cacciata in questo impiccio per aver voluto seguire il consiglio altrui. «Il tuo bel consiglio!» scattò Ersilia, ripiegando la lettera. «Non devi farne mai una giusta!» «Io!» rimbeccò Ennio. «E che ho forse scritto alla tua degnissima signora madre che mi scegliesse per balia la nuora d'una pazza furiosa? No, ma di volere una balia siciliana! Se non avessi avuto questa splendida idea, non ci troveremmo ora in questi impicci. Del resto, va là che ti piace! E molto la balietta siciliana! Già me ne sono accorta!» Il Mori sgranò tanto d'occhi. «La balia di mio figlio! Grida, grida, fa sentire tutto di là. Prima mi pungi e poi vuoi che non gridi? Anche gelosa della balia di mio figlio adesso? Sei pazza? Tu sei pazzo! Avessi tu tanto sale qui quanto ne ho io. Intanto che si fa? Che dobbiamo farne di questo denaro? Non vorrei mica, spero, spiattellarle che sua suocera lo rifiuta. Ma figurati, darle questo dispiacere, me ne guarderei bene». Il Mori perdette la pazienza e, scrollandosi rabbiosamente, andò via. Capitolo 4. Gli toccava ora anche questo, privarsi di fare una carezza, fin anche di volgere uno sguardo al suo piccino, perché la moglie sospettava già che la balia potesse interpretar quelle carezze, quegli sguardi, come rivolti a lei. «E perché?» gli domandava ella, infatti. «Perché non ti compiaci di tuo figlio quando sta in braccio a me e vai invece a fargli tante smorfie quando sta con quella?» Sdegnato, avvilito di quell'ingiusto e odioso sospetto, Ennio le gridava. «Ma se te non ci stai mai!» Il bambino, ogni qualvolta ella se lo prendeva in braccio, si metteva a piangere e tendeva le manine alla balia. Forse ella lo teneva male, non tanto perché non ci fosse avvezza, quanto per timore che potesse averne sporcate le ricche vesti da camera di cui faceva grande sfoggio. Quantunque non ricevesse mai visite e di rado uscisse di casa, pure spendeva enormemente per gli abiti, dei quali alla fine restava sempre scontenta, come di tutto e di se stessa. Si sentiva ed era forse davvero infelice, ma di questa sua infelicità incolpava gli altri anziché la propria indole scontrosa, l'aspro carattere, la mancanza di ogni garbo. Era convinta che se si fosse imbattuta in un altro uomo, che l'avesse amata e compresa, non avrebbe sentito tutto quel vuoto che sentiva dentro e attorno a sé. Ora le era venuto in uggia fin anche il bambino, perché questi dimostrava di voler più bene alla balia che a lei. E non passava giorno che, anneghittita in quell'ozio, non piangesse di nascosto. Il marito le vedeva qualche volta gli occhi gonfi e rossi, ma fingeva di non accorgersene. Schivava quanto più poteva di parlare con lei, ormai certo che per quanto dicesse o facesse non sarebbe riuscito a ispirarle, a comunicarle quell'affetto per la vita di cui ella sentiva il desiderio smanioso, ma del quale nello stesso tempo la riteneva incapace. Se l'aspettava dagli altri la vita, senza intendere che ciascuno deve farsela da sé. Del resto, se era infelice, non meno infelice era lui, che doveva viverci insieme. Bella esistenza la sua, tutto il giorno tappato lì, nello studio. Meno male che di tanto in tanto venivano a trovarlo gli amici del partito, coi quali poteva almeno sfogarsi, discutere liberamente. Durante quelle discussioni il vecchio scrivano dello studio era mandato in sala. S'inchinava ogni volta profondamente il signor Felicissimo Ramicelli a quei signori rivoluzionari e usciva con molta dignità. Appena varcata la soglia, però, e richiuso l'uscio, strizzava un occhio, sollevava un piede e si stropicciava contentone le mani. Poi, rizzandosi le punte dei baffetti ritinti, andava a seder sulla panca della sala d'ingresso, con la speranza che vi capitasse Annicchia, la bella balietta siciliana. Già aveva tentato d'attaccar discorso con lei. «Sai come mi chiamo? Felicissimo!» Ma Annicchia pareva non capisse, gli voltava le spalle, e il signor Ramicelli diceva allora a se stesso «Felicissimo, eh già, ma di che?» Gli avevano imposto, come un augurio, questo bel nome superlativo. «Grazie!» Ma proprio nella vita non aveva trovato mai di che dichiararsi non che felice, ma neppure appena appena contento il signor Ramicelli. Guadagnava 8 lirette al giorno, che gli sarebbero bastate forse se non avesse avuto un vizietto, un certo vizietto. Come si fa? Le belle donnine! Quell'Annicchia, per esempio, che bocconcino! Ogni qualvolta la vedeva, si sentiva toccar l'ugola. E gli pareva anche una buona ragazza. Gli pareva, intendiamoci, perché tutte le balie, si sa, ragazze andate a male. Roba da guerra, là! Annicchia, notando le occhiate, i lezzi da scimmia del signor Ramicelli, non sapeva se dovesse riderne o aversene a male. Le sembrava tanto curioso quel vecchietto ancora così biondo. Certo, se non era già andato via col cervello, poco ci doveva mancare. Là, nella saletta d'ingresso, ella tentava di mettere a prova i piedini del bimbo, reggendolo sotto le ascelle. Non era ancora riuscita, dopo 6 mesi, a pronunziare correttamente il nome che il Mori aveva imposto al bambino. Leonida. Lo chiamava Nonida. «Ma che Nonida?» le diceva il signor Ramicelli, per stuzzicarla. «Leonida!» «Io non so dirlo. E felicissimo? Non sai dirlo neppure, felicissimo? Mi chiamo proprio così, sai?» Annicchia si riprendeva in braccio il bambino e andava via dalla saletta, dicendo... «Non ci credo!» «E neppure io!» concludeva filosoficamente il signor Ramicelli, che restava lì ad aspettare che la discussione nello studio terminasse. «Tattica, farabutti, l'educazione del proletariato, programma minimo!» Queste e simili espressioni giungevano di tratto in tratto agli orecchi del Ramicelli, il quale scuoteva malinconicamente il capo e si volgeva piuttosto a guardare verso l'uscio per cui era andata via la balia e sospirava. Gli giungeva di là qualche volta una certa ninna nanna paesana che Annicchia cantava con voce dolce e malinconica, forse pensando al suo bambino e guardando intanto questo che già col suo latte s'era fatto grosso e bello, anche più grosso di quanto aveva lasciato il suo, là. Ah, un gigante, certo, si sarebbe fatto, povero Luzziddu, se ella avesse potuto allattarlo. E invece, chissà, le passavano tante brutte ideacce per il capo. Spesso se lo sognava infermo, magro magro, pelle e ossa, col colluccio vizzo e un testone da rachitico che gli s'abbandonava ora su una spalluccia, ora sull'altra, e gli ingrossava di punto in punto mentre ella stava a contemplarlo, raccapricciata, allibita. «Questo è il mio Luzziddu! Così si è ridotto!» E voleva, nel sogno angoscioso, dargli il suo latte, subito subito. Ma il bambino allora la guardava con gli occhi cupi, truci della nonna, e voltava la faccia, rifiutando il seno che ella gli porgeva. Che strazio! Si destava col cuore in gola, e fino a giorno non riusciva a togliersi dagli occhi l'immagine del figliuolo ridotto in quello stato. Non ardiva più, intanto, di parlarne alla padrona che già più volte le aveva risposto male, forse perché urtata dalla sua soverchia insistenza, o forse perché temeva che ella, pensando troppo alla sua creaturina, trascurasse il bimbo. Ma questo no, in coscienza, non poteva né doveva dirlo. Eccolo qua, Nonida, florido e vispo. Annicchia quasi quasi non sapeva più riconoscere nella padrona d'oggi la signorina Ersilia d'un tempo, così malamente si vedeva trattata. Peggio d'una serva. Faceva di tutto per lasciarla contenta, si piegava a tanti servizi a cui non era obbligata, ora che Margherita, la sorda, era andata via, e si sforzava di parere allegra e di rincorare anche la padrona che dava in ismanie e si disperava per ogni nonnulla. «Eccomi qua, ci sono io, faccio tutto io, signorina mia, non si confonda!» Avrebbe voluto, in compenso, un po' più di considerazione, Per esempio, quando arrivavano le lettere dalla Sicilia, gliele recava lei, tutta contenta, esultante. «Signorina, signorina! Che c'è? Hai preso un terno all'otto?» La agghiacciava ogni volta con quelle parole. Stava ad aspettarla che la finissa di leggere la lettera, sperando che le desse subito notizia del suo bambino. Ma che? Nulla! Doveva domandargliene lei, quando le vedeva rimettere il foglio nella busta. «E di Luzziddu? Niente?» «Sì, dice che sta bene.» «E mia suocera? Mia suocera?» «Anche.» Doveva contentarsi di queste risposte. Ma possibile che di laggiù non le mandassero a dire altro? Ah, come si pentiva adesso di non avere imparato a scrivere. Aveva sì supposto, partendo, che la lontananza le sarebbe riuscita penosa. Ma tanto poi no. Era un vero supplizio così. Il bambino però tra pochi giorni avrebbe compiuto 7 mesi. A 9, per volontà del padre, doveva essere svezzato. Dunque 2 mesi ancora di quelle sofferenze. Pazienza. Non s'aspettava, confortandosi e rassegnandosi così alla mala sorte, quel che doveva accaderle proprio nel giorno che il bambino compiva il 7° mese. Giorno di doppia festa, perché a Nonida era anche spuntato il 1° dentuccio. Sentendo suonare quel giorno il campanello alla porta e parendole dalla scampanellata che fosse il postino, s'era recata ad aprire tutta contenta al solito. Ma a un tratto, senza aver avuto neanche il tempo d'accorgersi a chi avesse aperto, s'era trovata per terra, intronata da un terribile schiaffo. Titta Marullo, il marito, pallido, scontraffatto dall'ira, le era sopra, con un piede alzato per pestarle la faccia. «Brutta cagna! Dov'è il tuo padrone?» Al grido accorsero il Mori, la moglie, il signor Ramicelli. Titta Marullo, pallido come un morto, si accostò al Mori, gli prese il bavero della giacca e scrollandoglielo pian piano. «Mio figlio è morto, sai, morto!» aggiunse, voltandosi verso Annicchia, che aveva cacciato un urlo. «E tu ora che vuoi fare? Me lo paghi o vuoi darmi il tuo?» «È pazzo!» gridò Ersilia, tremando, spaventata. Il Mori respinse con un urtone il Marullo, indicandogli la porta, furente nel corpicciuolo nervoso. «Via!» gridò. «Mascalzone, esci di casa mia, subito!» «Che fai?» gli disse il Marullo, venendogli avanti a petto. «Io non ho più nulla da perdere, bada! Mia madre è all'ospedale, mio figlio è morto! Sono venuto a sputarti in faccia e a prendermi questa cagna! Su, alzati!» aggiunse rivolgendosi alla moglie, che stava ancora buttata a terra. Ma a questo punto il Ramicelli, che era scappato via, non visto, ritornò ansante e spaventato, insieme con 2 guardie di questura, alle quali subito il Mori, che tremava tutto di rabbia, si rivolse concitatissimo. «Via, conducetelo via! È venuto a insultarmi, a minacciarmi fino in casa, codesto mascalzone!» Le 2 guardie afferrarono per le braccia il Marullo, che cercava di svincolarsi, gridando «Io voglio mia moglie!» e lo trascinarono via, seguiti dal Mori, che volle recarsi in questura a denunziare l'aggressione patita. Capitolo 5. Il giorno dopo, senza fretta, arrivò la lettera della signora Manfroni, che annunziava la morte del bambino e la malattia della vecchia Marullo. Di Titta nessun cenno. Il Mori suppose dapprima che gli fosse evaso dal domicilio coatto, ma poi venne a sapere che era stato graziato per intercessione del prefetto, a cui la madre ammalata aveva rivolto una supplica dall'ospedale. La questura di Roma, intanto, lo aveva rimandato in Sicilia, sotto la minaccia che sarebbe tornato al suo luogo di pena se laggiù avesse minimamente tentato di sottrarsi alla sorveglianza speciale a cui era stato sottoposto per 3 anni. Ad Annicchia, per lo spavento del marito e lo strazio della morte del figlio, era sopravvenuta una fierissima febbre. Parve per 3 giorni che volesse impazzire. Poi il delirio, le allucinazioni cessarono. Rimase come stordita, in un istupidimento che costernava anche più delle furie di prima. Guardava e pareva non vedesse. Udiva ciò che le si diceva, rispondeva di sì col capo o con la voce, ma poi dimostrava di non aver compreso. Il latte le era venuto meno e il bambino si era dovuto svezzare. Tutta la casa era sossopra. Ersilia, inesperta, inetta a tutto, aveva dovuto vegliar 2 notti il bambino, che voleva la balia, e non si quietava un momento. aveva dovuto anche attendere alla casa, dar le prime istruzioni alla nuova serva, badare anche un po' alla malata. Ed era sulle furie contro il marito, che si guardava attorno con un giornale in mano senza saper che fare. Ma che avrebbe potuto fare? «Che?» gli gridava la moglie. «Ma muoverti, darti attorno! Non vedi che io sono qua sola, senza nessuno, col bambino in braccio, e non posso badare anche a lei che mi ha cagionato tutto questo scompiglio? Va, esci, procura di trovarle posto in qualche ospedale!» Ennio, a tale proposta, si fermava a guardarla trasecolato. «All'ospedale! Pietà, compassione!» riprendeva Ersilia, inviperita. «Per lei, è vero? Non per me, che non dormo più da tante notti, che non trovo più neanche il tempo da pettinarmi. Devo fare la serva a tutti? Ma aspetta che si rimetta in piedi e ti farò vedere. Neanche un giorno, neanche un minuto deve rimanere più in casa mia!» Non ebbe però il coraggio di porre a effetto questa minaccia, appena Annicchia si fu un poco rimessa. Tentò di muovergli nel discorso, dichiarandole che teneva a disposizione di lei il danaro che la suocera aveva rifiutato. Ma Annicchia le rispose: «E che vuole che me ne faccia più oramai? Non ho più che questo qua ora!» E si strinse al seno Nonida, che era tornato a lei e le dimostrava lo stesso amore, quantunque divezzato. La prima volta che la serva glielo recò lì a letto ne provò una viva repulsione. Per lui il suo bambino era morto. Ma poi, commossa dall'amorosa impazienza con cui il piccino ignaro le tendeva le manine, se lo abbracciò stretto stretto, come si sarebbe abbracciato il suo stesso figliuolo, e sciolse il cordoglio che la soffocava in un pianto senza fine. Il piccino le cercava ancora il seno. «Ah, figlio! Ah, figlio, che vuoi più da me? Non ho più nulla io, non posso dar più nulla io, né a te né a nessuno. Finì la mamma tua, amore mio, finì, finì!» Ah, se almeno avesse potuto sapere con certezza come, perché fosse morto il suo bambino, se per mancanza di nutrimento o per qualche male non curato. Doveva rassegnarsi così senza saperne nulla, più nulla? Possibile? Come fosse morto un cagnolino. Oh, povero innocente abbandonato, senza la mamma sua accanto, senza il padre, senza nessuno, morto lì, fra mani estranee. Oddio, oddio! Ma chi si curava ora della sua pena? La padrona, anzi, era in collera con lei per via del figlio privato improvvisamente del latte, a soli 7 mesi. E aveva ragione, sì, perché anche lei era mamma e non poteva darsi pensiero che del suo figliuolo. Che importava a lei che quell'altro fosse morto? Dispetto poteva sentirne, non dolore. Sì, ma deve pur comprendere, pensava Annicchia, che il suo figliuolo appartiene ora anche a me, che se ella ci ha messo la pena di farlo, io ci ho rimesso il figlio per lui e ora non mi resta più altro. Per quanto Ersilia non dispiacesse di sottrarsi al fastidio del bambino, pure non voleva che questo s'affezionasse di più a colei che già lo considerava come suo. E si raffermava sempre più nel proposito di mandarla via. Del resto, che obbligo aveva di tenerla ancora? Non era adatta né a far da serva né da bambinaia. Ella poi voleva che il suo piccino imparasse a parlare bene l'italiano, e con quell'accanto, che parlava soltanto in dialetto, non sarebbe stato possibile. Dunque via, via! O doveva forse tenerla perché desse spettacolo della sua bellezza al marito? Via, via! E il marito stesso doveva licenziarla. «Io!» «Perché io?» le disse il Mori. «Perché tu sei il capo di casa, e poi perché non so che cosa ella si sia fitto in mente per la pietà, per la commiserazione che tu hai voluto dimostrarle in questa occasione». «Io!» ripeté Ennio. «Non le ho dimostrato nulla io!» «L'avrà forse creduto lei, allora. Per me fa lo stesso. Non vedi? Crede già di essere a casa sua. Le madri così qua, le padrone di casa, saremmo due. Ora, se questo può piacere a te, a me non piace». Ennio, pur sapendo che faceva peggio, si provò ancora una volta a ragionare. «Ma scusa, perché vuoi ostinarti a vedere il male dove non è e crearti fantasmi odiosi quando io, con la mia vita di studio, di lavoro, non ti ho mai dato cagione di dubitare di me? Hai visto che per stare in pace, per contentarti, mi sono finanche vietato di fare una carezza al mio bambino? Diffidi ora di quella poveretta? Ma ti pare che possa sorriderle il pensiero di tornare laggiù dove non troverà più il figlio, dove troverà invece un bruto che la incolpa della morte del bambino e di cui lei ha paura? Avendo perduto il proprio figliuolo, per essere venuta qua ad allattare il nostro, crede di aver acquistato il diritto di stare in casa nostra, presso a quest'altro bambino al quale ha sacrificato il suo. Non ti par giusto? Non ti par ragionevole? Ripeteva, senza volerlo, quel che aveva scritto poco prima che la moglie entrasse nello studio a parlargli. Riflettendo intorno al triste caso di quel bambino morto laggiù in Sicilia, aveva pensato a un passo dell'opera del Malon, Le socialisme intégral, e invece di farsene un rimorso, s'era proposto di farne argomento d'una conferenza che avrebbe tenuto al circolo socialista fra qualche giorno. Ersilia, come era da aspettarsi, si ribellò a quelle riflessioni umanitarie e uscì dallo studio deliberata a licenziare sul momento Annicchia. Il Mori, esasperato, afferrò le prime cartelle già scritte della conferenza e le scaraventò a terra. Poco dopo, attraverso l'uscio chiuso, intese il pianto disperato di quella disgraziata e le parole strazianti con cui pregava la padrona di non mandarla via. «Mi tenga come serva, senza darmi niente, mi dia solo un tozzo di pane, quel che dovrà buttar via, dormirò magari per terra, ma non mi scacci per carità, io laggiù non posso più ritornare, abbia pietà di me, lo faccia per amore di questo innocente». «Se lei mi scaccia, io mi perdo, signorina, io mi perdo, ma laggiù non torno!» Durarono a lungo quel pianto e quelle angosciose preghiere. Poi il Mori non intese più nulla. Ritenne che Ersilia si fosse impietosita e avesse concesso a quella poveretta di rimanere col bambino. Di lì a poco entrò nello studio il signor Felicissimo Ramicelli, senza la consueta dignità, infocato in volto e con gli occhietti lustri. Che vittoria, per poco non si fregava le mani, lì, sotto gli occhi dell'avvocato, il signor Ramicelli. La bella balietta siciliana, scacciata ora dalla padrona, quella sera stessa sarebbe venuta a dormire in casa sua. Ma già le balie, lui lo sapeva bene, tutte ragazze andate a male, roba da guerra, là. Questa qui faceva ancora l'ingenua, mostrava di credere ad aver compreso che lui la volesse soltanto per serva. Eh sì, per serva. Perché no? Signor Ramicelli, comandi, signor avvocato. Attento, eh? Scrittura chiara e mi raccomando, senza svolazzi, né in su né in giù. E il Mori gli porse da ricopiare le cartelle già scritte della conferenza. Poi seguitò. L'eguaglianza tra gli uomini, secondo il socialismo, come diceva il Malon, si deve intendere quindi in un duplice senso relativo. Primo, che tutti gli uomini, perché tali, abbiano assicurate le condizioni dell'esistenza. Secondo, che quindi gli uomini siano uguali nel punto di partenza alla lotta per la vita, sicché ognuno svolga liberamente la propria personalità a parità di condizioni sociali. Mentre ora il bambino che nasce sano e robusto, ma povero, deve soccombere nella concorrenza con un bambino nato debole, ma ricco. «Signor Ramicelli, avvocato, che ha? È impazzito? Perché ride così?» Fine della novella La Balia. Registrazione di Silvia De Simone. Roma.